più. T'amerò così tanto per tutta la vita, mai, mai, mai più. Saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sai, bimba mia, che impazzivo soltanto per te. Per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capì che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché cuore non saprò darti.